which are perfectly natural and quite right. I'm also young now, but having them stirred much too young and in a wrong way. Admiring the young men, not the young men who've done really fine deeds or are great athletes or something which is manly and worth admiring, but admiring young men for a totally wrong and, to my mind, very low reason. Together. Yes, I think it would be wonderful if, say, for 5 years, it would write right out and burn everywhere, and you would find that very soon they wouldn't be sick at the time. And that was what led me to mention Hitler. He said, Nazi Germany, that nowhere on the Marlies was there any common stuff. They danced to their own Viennese tunes and rhymed them to folk tunes, and were quite happy. Thank you. E siamo rientrati in diretta, abbiamo iniziato questa seconda parte di 451 frammenti sonori, trasmissione per coloro che si fossero messi in ascolto solo questa sera, casualmente, così in maniera assolutamente non prevista su Radio Città del Capo, trasmissione dedicata alle musiche sperimentali, di ricerca, di sperimentazione d'avanguardia. Stasera puntata che abbiamo iniziato intorno alle 23.35, prima parte che abbiamo sviluppato fino al GR di Radio Polare Network, puntata dedicata alla No Wave, intitolata Frammenti di No Wave, anche perché non vogliamo essere esaustivi in questa trasmissione. Abbiamo già affrontato il tema No Wave in passato dentro 451 frammenti sonori. Stasera riprendiamo questo discorso riagganciandoci anche alla puntata speciale che abbiamo condotto insieme a Jerry di Altri Suoni, trasmissione che va in onda sempre un'ora prima della nostra trasmissione, con cui abbiamo già portato avanti da diversi anni una collaborazione. Abbiamo condotto questa puntata speciale sulla Wave degli anni fine 70 inizio 80 insieme anche a questo DJ Tetro, che ha partecipato fattivamente alla costruzione della trasmissione ed essendo stato anche un DJ che ha lavorato nell'ambito della Wave in Italia, in particolar modo a Bologna e in Emilia negli anni fine 70 inizio anni 80. E questa puntata su Frammenti di No Wave, abbiamo sviluppato nella prima parte un percorso cronologico partendo dai primi lavori legati alla No Wave tra il 77 e il 78 per arrivare fino al 1982 col disco di Maximum Joy, Station MXJY dell'82 appunto. Formazione che abbiamo inserito nella prima parte: Theoretical Girls, Dinosaur L, Ludus, The Lines, Bash Tetras e ovviamente Maximum Joy. E abbiamo aperto, senza entrare in voce, con uno splendido lavoro, Seven Songs del 1982, di un'altra formazione inglese che aveva e ha sviluppato un collegamento stretto anche di collaborazione con alcune formazioni newyorkesi, pur essendo una formazione nata, cresciuta e sviluppata in Inghilterra. 23 Skidoo, Seven Songs l'album, formazione che oltretutto è stata una delle prime formazioni insieme a Cabaret Voltaire e grande altra formazione, Trouble and Crystal, della scena inglese della musica industriale, appunto insieme a queste altre due formazioni molto più famose di 23 Skidoo, che hanno caratterizzato la musica industriale, e si sentono chiaramente anche degli echi in questo disco industrial di Seven Songs. E un disco appunto questo che ha avuto importanza fondamentale nella scena No Wave Industrial, queste contaminazioni continue che si sentivano anche nei lavori dei Cabaret Voltaire e Trouble and Crystal e che hanno sicuramente segnato un'epoca storica, quella degli anni 80. Dunque, dopo 23 Skidoo andiamo a trovare una formazione anch'essa tra le più importanti da me citate nell'ambito della No Wave nella prima parte della trasmissione, cioè i Conk dall'album Yo del 1983, uno splendido lavoro che spesso viene citato da musicisti, autori, critici come un riferimento storico importante della scena No Wave, uscito per la Crepuscule nel 1983. Entriamo, diciamo, un po' nella parte finale del periodo Wave, che si chiude appunto intorno all'83-84, e questo è uno dei dischi che mantiene ancora fede a quel spirito innovativo, crudo, ruvido, ma estremamente eclettico, gioioso e vitale della No Wave. Conk dunque da Yo, e poi riprenderemo ancora altre formazioni di questo momento terminale del periodo Wave, che mantiene comunque ancora una fortissima attualità sonora, musicale, concettuale, e oserei dire, come ho già detto proprio poco tempo fa, pochi secondi fa, molto molto vitale. Conk Yo, 1983. We'll be right back. E siamo rientrati in diretta dopo questo mix straordinario, non da parte mia, straordinario dal punto di vista musicale. Abbiamo mixato Conk da Yo 1983 con questa formazione incredibilmente jazzata e funkeggiata, i Pig Bag, disco del uscito come raccolta complessiva del 1987. In realtà questo è un disco del 1983 dei Pig Bag, formazione americana che è riuscita sempre a creare delle dimensioni di contaminazione fortissime nella new wave con l'elemento nero, dunque jazz e funk. Formazione oltretutto composta da ben 8 elementi, molti fiati come avrete sentito, chiaramente il nocciolo duro costituito da batteria, basso e chitarra, e molti appunto fiati che creano situazioni estremamente aperte a orchestrazioni ma anche molto crude e sonoricamente intelligenti, senza andare mai su elementi orchestrali un po' ridondanti, un po' barocchi, alle volte anche giocosi e divertiti e divertenti come in questo brano in sottofondo con quasi melodie hawaiane. Musicisti molto molto bravi che hanno avuto nella formazione tipo questi elementi: Chip Carpenter, Mark Smith e John Johnston, oltre anche a Simon Underwood, che ha lavorato oltretutto, è bassista e fondatore dei Pop Group. Dunque rientriamo sempre in contaminazioni fra elementi anche industriali oltre che funk e jazz, mischiati appunto all'elemento post-punk. Ricordiamo anche Roger Freeman alle percussioni, elemento importantissimo dal punto di vista delle caratterizzazioni tribali, Chris Hamlin al clarinetto oltre che anche lui alle percussioni. Formazione appunto, ho citato alcuni elementi ma sono passati diversi musicisti dentro questa formazione di Pig Bag, appunto addirittura un personaggio come Simon Underwood che poi ha formato i Pop Group. Formazione appunto estremamente aperta, con collaborazioni in Inghilterra e in altri paesi europei con musicisti che comunque si sono avvicinati agli elementi e ai linguaggi no wave, e dall'elemento più jazzato e più funk, dunque più nero dentro la no wave, andiamo subito ad agganciarci a un altro personaggio importantissimo della scena no wave, cioè James Chance, che oltretutto è conosciuto per aver costituito ed essendo stato l'elemento trainante dei The Contortions, altra formazione fondante della new wave americana. James Chance, che però dopo i primi anni di creazione del progetto The Contortions dal 1977 all'81, poi ha cambiato nome e si è fatto chiamare James White e ha costituito un progetto personale che ha continuato poi a portare avanti negli anni 80, collaborando anche con altri musicisti. Personaggio importantissimo, esce dalla scena americana e newyorkese, in particolar modo legata alla musica d'avanguardia, in particolar modo al free jazz, un jazzista free estremamente eclettico che poi si è aperto addirittura al discorso wave e no wave e soprattutto anche ad elementi post disco che l'hanno fatto addirittura creare negli anni 80 una formazione assurda e assurdista come The Blacks, che costruivano e portavano avanti una disco bizzarra e assurda che si è sviluppata per un paio di album negli anni 80, anche in controtendenza rispetto a quello che stava emergendo tra l'83 e l'85 nella scena newyorkese. Personaggio veramente importante, abbiamo scovato un disco del 1983 proprio in apertura, diciamo, del suo progetto come James White, James White's Flaming Demonics, questo è il disco, e ce l'andiamo a ascoltare agganciandoci dunque anche Pig Bag nella coloritura più nera, più jazz, più funk e anche post disco del periodo e della scena no wave. Dunque James Chance, James White's Flaming Demonics. We'll be right back. Rientrati dopo questo assurdo passaggio musicale eccezionale per l'intensità sonora e per la carica proprio emotiva e vitale di James Chance, in questo caso James White, Flaming Demonex 1983. E ormai siamo in chiusura e chiudiamo con un progetto invece che rientra un po' dalla porta posteriore, nel senso che facciamo un salto, diciamo, tra post-punk, elettronica, influssi industrial, con una formazione poco conosciuta ma anch'essa piuttosto importante, soprattutto per l'sperimentazione elettronica, per il suono crudo e cattivo del punk, del post-punk. Parliamo di Philon, formazione americana che, nata nel 1978, ha chiuso i battenti nel 1983. Formazione composta da personaggi assolutamente eclettici e anche piuttosto aggressivi dal punto di vista proprio scenico, dei loro concerti, nei vari concerti nei club americani, newyorkesi in particolar modo. Ritroviamo personaggi come William Faulkner e Randy Bewley, che erano i personaggi cardine di questo progetto, che poi ha visto la presenza anche di altri musicisti, come tipicamente avveniva in questi progetti new wave. C'era una collaborazione, un intreccio continuo tra musicisti, autori e personaggi che giravano appunto a New York in quei magnifici anni tra il 1977 e il 1983. Andiamoci dunque a ascoltare, in chiusura di questo percorso ovviamente non esaustivo, frammenti, così l'abbiamo voluto chiamare, di new wave, con Philon, da un disco uscito nel 1983, proprio il disco di chiusura del periodo d'oro di questa formazione, intitolato Chomp. Andiamoci dunque a ascoltare, passiamo a un suono più crudo, meno nero, meno funk, ma più legato al punk, per chiudere ovviamente temporaneamente il cerchio intorno alla new wave, ma ci ritorneremo sicuramente andando a pescare forse autori, progetti meno conosciuti, più di nicchia, più strani, più particolari ancora, per conoscere ancora meglio un periodo che è stato fecondo di moltissime progettualità, di intrecci, di sperimentazioni, ricco veramente di un coacervo di progetti e di ispirazioni e anche di idee alternative alla concezione musicale, contro l'idea commercializzata e divizzata dei meccanismi ovviamente musicali, che poi rappresentano soprattutto nell'ambito del cosiddetto rock, sempre tra mille virgolette, un'idea quasi idolatrata di personaggio, di divo, di rapporto staccato tra musicisti, palco e pubblico. Questa la new wave l'ha voluto completamente ribaltare e ci affidiamo in chiusura ai Philon, o Pylon, non lo so qual è la definizione giusta, dal disco Chomp 1983. Chiudiamo il cerchio, buonanotte e ovviamente arrivederci, anche se non ci vediamo, alla prossima puntata, domenica prossima, di 451 frammenti sonori, condurrà Max Macchia. Io non ci sarò, ci alterniamo ultimamente, spesso negli ultimi mesi, chissà, forse cambierà il giro e ritorneremo in maniera più consuetudinaria a condurre in duo. Buon ascolto e buonanotte con i Philon.